24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino della bersanese. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Un master in bersanese, tutti gli occhi sono puntati su Pierluigi Bersani, cari ascoltatori, iniziano le consultazioni quirinalizie e allora forse ci siamo, sono le 6:33 minuti, voglio salutare tutti voi e voglio salutare anche Miriam Lucchetti in redazione, come sempre, e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Siamo pronti a stare con voi fino alle 9 con un'altra puntata di 24 mattino. Il numero per i vostri messaggi è il consueto 349-238-6666 e la serranda si può aprire, la serranda del Parlamento. Eccoci qua. Il caffè volentieri a tutti quanti. Forza, forza gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Non ho capito perché mi scrivono di togliere Nicole Minetti, è passata. E poi se io tolgo Nicole Minetti, chi è che ci offre il caffè a tutti quanti? Trovatemene un'altra che ci dice offro il caffè a tutti quanti e noi la cambiamo, perché sennò ci tocca pagare qua. Tanto il barbie è tuo. Allora, nel nostro Parlamento voglio salutare Paola Saluzzi, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, è un mercoledì meraviglioso, buongiorno a tutti. Paola, dobbiamo fare un grosso applauso al nostro direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno sì. Luca. Perché... Buongiorno. Clap. No, ma senti che voce squillante, rifacciamo. Buongiorno a Luca Dini. Buongiorno. Luca Dini è a Londra, sono pure le 5:30, no? Mi risulta. Ma un eroe dei nostri giorni. Come stanno Kate e William? Ma bene, credo. Si è disincagliata col tacco da Kate. Sì, tanto. Perché mi sembra che sia rimasta lì 2 giorni attaccata col tacco. Col tacco. Infatti che i tacchi non si portano quando si aspetta un bambino, insomma, perché farlo stare in quella posizione scomoda. Mamma mia, ma cosa sei, una donna del 1300, Paola Saluzzi? Non è vero! No, non lo so, ti sarà successo anche a te quando vai in giro con questi tacco 12, no? Quello sì. Che ti si incaglia. Tutti i tombini sono i miei, anche i San Pietrini a Roma. Anche San Pietrini. Allora, caro Luca Dini, tu sei a Londra e non avrai saputo della grande novità. Ieri si sono presentati da Ballarò Laura Boldrini e Piero Grasso. Erano lì, il presidente di Camera e Senato. Faceva un certo effetto, no? Si sono presentati lì per un'intervista breve. Lì, affiancati. Hanno annunciato subito, sentite Laura Boldrini, presidente della Camera. Abbiamo deciso congiuntamente di tagliarci il 30%, almeno il 30% del nostro stipendio. Di rinunciare... Presidente Grasso, di rinunciare anche alle nostre abitazioni e di metterle a disposizione delle attività istituzionali. Chi più ne ha più ne metta. Cioè, via il 30% dello stipendio, via gli appartamenti. Poi ha detto poi vogliamo tagliare gli stipendi dei dipendenti delle Camere. Questo è già l'effetto Grillo, Luca Dini, questo sì. È l'effetto Grillo adesso. Assolutamente, anche l'elezione di queste due persone, benché contestato da Grillo, è l'effetto Grillo, io credo. Certo, la gente non se ne accorge, ma è già questa la vittoria del Movimento 5 Stelle, o no, Paola Saluzzi? Gli effetti si vedono? Sì. Concordo in pieno, insomma, la reazione nel senso l'azione messa in pratica ieri da Boldrini Grasso sta tutta nel loro ruolo e nella loro storia pregressa, insomma, come dire. Quindi va anche dato merito proprio alle persone, però innegabilmente è frutto di questi tempi. Io può essere più che soddisfatto e felice per quanti suoi grillini abbiano votato per Grasso, come vedi poi il paese reagisce bene alle sue richieste. No, ma certo. Sentite addirittura Piero Grasso invece, il Presidente del Senato, devo dire che tra poco vi faremo sentire una cosa spassosa, secondo me ha fatto la risposta più incredibile della storia della Repubblica, ma ci andiamo con calma. Sentite Piero Grasso sul lavoro, devo dire che i calcoli effettivamente sono un po' strani che ha fatto, ma sentite addirittura pensiamo di aumentare di lavorare e di lavorare dal lunedì al venerdì. Intanto noi andiamo per una più alta produttività raddoppiando le ore di lavoro che negli ultimi tempi erano 48 a 96, cioè significa lavorare mediamente dal lunedì al venerdì. Non mi pare poi granché. Eh no, Lucadini, non ci pare granché lavorare dal lunedì al venerdì. È una cosa. No. E poi hai fatto dei calcoli, è aumentata da 48 a 96 ore. No, infatti, che succede alla Camera, al Senato? Da 48 una settimana di 96 ore aumentando la produttività. Beh, forse secondo me è il mese. Io penso che sia mese. Al mese, cioè, io non lo so, le famose 40, 40 ore. Da certo, dai 40 ore a settimana, poi per 4 per 4 16, 160, non lo so. Paola, tu ci hai capito? Io mi perdo sui conti, non venire da me a chiedere no, i conti per Milan, perché non ci sono, non ci no, sono. Ma soprattutto lavorare dal lunedì al venerdì. Ma sai, posso dire una cosa, diventa un fatto clamoroso, e nelle parole di Grasso non c'è questo clamore, anzi tutto il contrario, quando ti rendi conto che abitualmente prima si potesse lavorare dal martedì al giovedì sera, più o meno era questo. Dico che per carità si facevano altre cose da altre parti, quindi chi voleva fare e chi fa politica seriamente poi non perde né il lunedì né il venerdì di lavoro, però sembra incredibile, ma dal lunedì così. Al venerdì. E bisogna dirlo, va bene, cioè, poi, dal insomma, lunedì al venerdì. Il nostro Peter Bescapè, mitico regista, ha detto scusate su Twitter, ha detto ma dov'è la novità? Infatti, lavoro da lunedì al sabato. Ma anche il sabato, la domenica. Cioè. Ma ecco. sentite questa, secondo me la risposta più clamorosa, anche perché ci fa entrare un po' nel dibattito delle consultazioni. A un certo punto Luca chiedono Floris chiede a Piero Grasso cosa dirà a Napolitano con le consultazioni, perché stamattina si presenta, e Piero Grasso, che evidentemente non voleva anticipare nulla della risposta, senti cosa risponde. Ancora non so se a zona uomo fare il 4-4-2-1 o il 3-5-2-2. Deciderò nella notte. Il 3-5-2-2. Dini, sai cosa mi è venuto in mente qua subito? Twitter è esploso su questo. Ti ricordi Oronzo Canà? Te lo faccio sentire. È la bizzona, il grande Lino Banfi. Che cosa consiste questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono. E così viceversa. Allora la gente pensa, perché c'ha 5 giocatori in più? Invece no. E perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, straordinario. Vabbè, l'allenatore nel pallone. La straordinaria risposta va al 3-5-2-2, non si capiva niente. No, la domanda in realtà è più seria, è questa, Lucadini. Anche lì a Londra, intanto a Londra chiedono di quello che sta succedendo in Italia, è che là è caduta la linea. Chi è che è caduto? Sì, ci sono stati William e Kate, e lei è inciampata sul filo del telefono. Figurarsi. No, le consultazioni. Allora, Paola, ce la faranno? Bersani pare pronto a presentarsi a Napolitano con un governo di cambiamento, magari a cominciare dal premier, dal candidato premier, no, non si sa. Ce la farà o no a mettere insieme una squadra che abbia la fiducia? Allora, il concetto è, secondo me, ce la deve fare, che non è solo secondo me. Sicuramente oggi la giornata più difficile in tutti questi calcoli 3-5-5-2-5-7 è per il presidente Napolitano, perché insomma mai avrebbe potuto immaginare a un mese neanche dalla sua, come dire, dal dover lasciare, iniziare a fare le valigie dal Quirinale, di trovarsi di fronte a una situazione del genere. Probabilmente ce la fa se tutto quello che sta accadendo in queste ore porta a far considerare che forse è bene che nel paese si muova ma ce la fa cosa? Ma questo è l'ottimismo di Paola Saluzzi, ma ce la fa, ma è l'unica al mondo, Luca Dini, ma è l'unica al mondo qua, Paola Saluzzi, è ricaduto, cioè, mi hanno detto, no, l'abbiamo recuperato, è ricaduto, una ogni volta basta nominare, Luca Dini, cade la linea, Luca Dini, sì. Cade la linea. Ascolta, e lo dico anche per i nostri ascoltatori, io sono definita un ottimista spietata. Infatti mi sembra abbastanza, cioè, svegliati, proprio. Svegliati, sono le 6:42, insomma, adesso. Ma mi sveglio, ma vuoi vedere che ce la si fa? Vuoi vedere? Ma io non lo so, ma perché? Cipro che bussa alla porta e che Cipro ci dice che c'è una situazione porta, certo. Molto complessa e molto complicata, magari spinge qualcuno a dire accidenti, facciamolo questo governo, no, ma infatti, poi vediamo cosa succede. Questa è l'idea, questa è l'idea. Noi ne parleremo proprio alle 8:15, no, del Cipro che ci bussa alla porta, sì. Per capire cosa succede. Non lo so, vorrei capire se abbiamo recuperato Luca Dini a Londra, chiediamo anche lì cosa ne pensano. Sì, l'abbiamo forse recuperato. Direttore, eccoci qua, ti abbiamo recuperato. Pronto? Sono tornato. Lo ho so. Perso il vostro modulo. È William. Modulo no, il modulo Saluzzi era dell'inguaribile ottimismo. Bersani ce la farà. Ma Bersani de che? Ma non perché ci abbiamo niente contro Bersani, ma perché i numeri sono quelli. Anche mettendo Monti e i montiani, ballano 12 numeri, cioè ballano 12 senatori. Allora, Luca Dini, intanto se ne parla a Londra di questa cosa dell'Italia o no? Sono preoccupati lì? Non tantissimo, devo non dire. Tantissimo. Quelli sono fuori dall'euro, ma chi gliene frega? Cioè, ma ce la farà o no Bersani? Tu come la vedi? Sei ottimista come la nostra? Io sono un po' meno ottimista sul risultato Bersani. Qualcuno ce la farà, credo ci vorrà un pochino più tempo, però è la sì. mia sensazione. Qualcuno che non sia Bersani, mi sembra di capire. Io ho questa sensazione, però... Come dire, spero di sbagliarmi, perché sarebbe bello che tutto sommato la cosa riuscisse a chi comunque ne ha più titolo. Sì, il problema è che l'idea è questa: forse Bersani vorrebbe proprio andare da Napolitano a proporre nomi nuovi, e già all'interno del partito inizia una sorta di, non so se dire fronda o qualcuno, anche ieri qua l'onorevole Civati ci ha detto forse Bersani dovrebbe capire che se cambiamo anche il candidato premier, magari, non so, come dire, uso un verbo molto politico, sfruculiamo il Movimento 5 Stelle a darci l'appoggio o no? Potrebbe essere questa la soluzione, Luca? Beh, per me già la scelta di Grasso Boldrini, insomma, mi è sembrato l'inizio di un processo di quel tipo. Ecco. Processo di quel tipo, cercare di blandire, no? Te lo vedi Paola Saluzzi, Bersani come la sirena di Ulisse che blandisce quel del Movimento 5 Stelle. Bersani vestito da sirena, io voglio dire, va bene tutto di prima mattina, anche il bombardino, ma insomma dovrei averne 12-13 per vedere Bersani vestito da sirena. No, non credo che sarà una buona sirena per il Movimento 5 Stelle, però potrebbero esserci, secondo me, delle eccellenti buone sorprese. Buone punto. Sorprese. Ma e quindi disse il mio ottimismo, visto chi? Che ieri il Santo Padre ha detto che bontà e tenerezza chi lo sa? Non devono fare paura, mi sono sentita molto rappresentata. Intanto io vi dico questo, ieri un mio conoscente che fa parte del Movimento 5 Stelle mi scriveva e diceva: hai dei nomi da propormi per la presidenza della Repubblica che li devo suggerire. Cioè c'ero io che messaggiavo e dicevo, ma non so, vedi, fai Rodotà, ecco, così, Zagrebelski, no? Tutti i nomi che vi venivano, questi un po' pomposi, no? E io glieli suggerivo così, gli ho detto basta che non metti Dario Fo, anche se, insomma, tutti ma non Dario Fo, capite? Cioè, al Movimento 5 Stelle, ma è un mio conoscente, non qua di Milano, mi chiedeva consigli perché li devo suggerire anch'io, e io mi sentivo importante, no? Perché mi sembrava di suggerire persone per il Quirinale. Rodotà, ho detto, Zagrebelski, ecco, questi qua. Allora andiamo a sentire le Zagrebelski, sì, con la Y finale che fa anche molto molto chic. Allora, ci sono le informazioni sul traffico, poi rientriamo. Attenzione, è ricomparso l'abruzzese che saluta Paola Saluzzi e poi e la vuole il Presidente della Repubblica, e anche, credo, Jean Martin dall'Emilia Romagna. 24 mattino. Ma a me fanno venire da ridere questi politici che parlano tutti che bisogna fare i sacrifici perché li hanno fatti anche i nostri genitori, i sacrifici. Ma cosa cazzo parlano a fare con la gente qua? Ma se riprendessi anche io 5 o 6 mila euro al mese, sarei ben disposto anch'io a fare i sacrifici. Che cosa parlano a fare i sacrifici? Ma che stiano almeno zitti, perché qua adesso non serve né la zappa né nel forcone, serve veramente il fucile. L'altra sera, per la contentezza che sono stati eletti due nuovi presidenti, mi sono ubriacata e ho detto: vino Pinello, quanto sei bello, beata chi ti pota, beata che ti zappa, possono uccidere chi ci mette l'acqua. Un saluto particolare alla signora Paola Di Schi, che è bella la Rai il mercoledì. Io non sono arrabbiato, io sono incazzato nero. Per quale motivo le consultazioni non sono iniziate ieri, visto che ieri quei maiali che vivono alle nostre spalle non hanno fatto una minchia di niente. Io mi sono rotto i coglioni. Basta, basta, basta! Il nome per il Quirinale è Emma Bonino. Sarà un grandissimo presidente. Ciao Milan, mi chiamo Vincenzo. Anche a me viene da vomitare al pensiero che l'Unione Europea favorisce sta merdata di sottrarre i soldi alla gente. Non ti sembra che l'Unione Europea sta legalizzando la mafia? Secondo me sì. Se nessuno più fischia e canta e di tristezza ce n'è tanta, se il mondo corre troppo forte, ben misera sarà la nostra sorte. Rallentama, rallentama bordel, torniamo in dria ai team più bel, riscopriamo il folklore, la melodica canzone, balliamo liscio in te cambaron, torniamo ai sumar, alla vacca, ai caval, ai barusen, se no a finire tutto in te casen. Vabbè, ma straordinario, straordinario, Paola Saluzzi, eccoci qua. Tra l'altro c'è quello hai capito, quello che salutava Paola, che ti voleva Presidente della Repubblica. Sì, di Sti, che vuol dire? Di Sti che lavora il mercoledì, ma è meraviglioso, datemi il numero di questo signore, vabbè, lo vado a trovare. Vabbè, in Abruzzo. E siamo col direttore di Vanity Fair, Luca Dini, da Londra oggi, quindi sono le 5:49 minuti, poi tra 5 minuti ti liberiamo, ti rimandiamo a dormire. No? Ecco, sentiamo. Cos'è il Big Ben? È il Big Ben per Luca Dini. Esatto. Mi ha svegliato. Allora, sempre Miriam Lucchetti fa questa cosa, mi porta la copertina, ormai mi fa la badante, no? Come c'hanno i grillini, c'hanno i badanti, io c'ho la badante. No? Mi porta avanti Ferri, c'è Marco Mengoni. Marco Mengoni ha vinto Sanremo, mi raccomando, non dire cazzate, cioè questa in copertina, ecco, va bene. Ci siamo. Mi suggerisce. Marco Mengoni, ma che vuol dire? E anche Baricco. Ecco, Baricco! Baricco, quello è un nome di un ministro renziano, no? Quello che voleva fare Renzi, ministro. Esatto. E che fa? Fa anche lui la politica? No, non è che l'avete intervistato per quello. No, lui rifonda e ingrandisce la sua scuola di scrittura. La scuola di scrittura. Però mi hanno detto che è antipaticissimo Baricco, no? È vero? È un po'... Per la mia esperienza, no, onestamente. No. Vabbè. No. No. Sì, Paola Saluzzi fa. Vabbè, è uno scrittore, ha le sue asperità, no? È un po' al suo carattere, voglio dire, no? E quindi. Vabbè. Ma con tutta sta gente ti pare che ci sta in giro, voglio dire, e che non sa neanche scrivere. No. Non è neanche antipatico, sa fare cose buone. No, ma per carità, cioè, mi hanno detto che ha il perché carattere. Non lo proponi per il Quirinale, per esempio, Milano? Il Quirinale, sì. Io ho proposto Zagrebelsky e Rodotà, l'ho dato in mano a un grillino, non so che... Però se poi Rodotà o Zagrebelsky verranno fuori, io mi sentirò in qualche modo come se avessi portato anch'io il Quirinale. Responsabile. Cioè, mi sentirò... Felicemente responsabile. Certo. E perché avete messo Marco Mengoni in prima pagina, che vuol fare? Ma lui, devo dire, un discorso che a me piace molto, un ragazzo di 24 anni che è in giro da un po', però insomma ha solo 24 anni e ha costruito tutto un gruppo di lavoro, tutte le persone con cui lavora sono giovani come lui, sono tutti sotto i 30 anni, cioè uno che alla sua età si pone il problema di dare possibilità a persone, una prima possibilità a gente appena uscita dall'università, dalle accademie. L'ho trovato interessante perché si pensa sempre che un ragazzo così che esce fuori si circondi di vecchi tromboni che gli dicono cosa deve fare. E invece curioso che a pensare a dare una possibilità ai giovani ci pensi un altro giovane. Anche se io, sai, come sempre faccio delle scelte un po' particolari. L'articolo sicuramente che leggerò è quello sul nuovo libro di Gabriele Romagnoli, che racconta la storia di un ergastolano per il quale chiede la grazia a Giorgio Napolitano. Sì, di che si tratta? Ma è la storia veramente incredibile di un suo ex compagno di liceo, che era il ragazzo perfetto, veramente quello che tutti avrebbero voluto come figlio, che poi per quelle strane sliding doors che ti apre la vita ha preso un'altra strada e adesso si trova all'ergastolo Insomma, è una storia da leggere, molto controversa, ma sì, certo, il libro è Domanda di grazia di Gabriele Romagnoli, è un'esplicita domanda di grazia per questo Andrea Rossi. Sicuramente questo mi interessa, se non altro la storia da leggere. Che dire, ma Jean Martin, che è tornato, è quello, Paola, te lo ricordi quello che ci aveva dato la poesia straordinaria, la poesia questa, te la faccio risentire. Par Milan, sentire. Radio 24, questa breve poesia. Stranzeme culet nama bota e così sia. È abbastanza sintetico e, come dire, facilmente comprensibile. Efficace, Gian Martè. Vabbè, Paola, te la regalo per te, tu che sei ottimista. La solita nostra, il nostro mito, lo regalo tutto dedicato a te. Sentilo un po'. Grazie Alessandro, arrivederci direttore. La sette chili. A zappa Lucambo dalla mattina alla sera e a pranzo. Una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena? Una minestra scunnita. Certo, per Paola Sanuzzi e il suo inguaribile ottimismo che Bersani ce la farà. Eccola qua, la zappa. Il Big Ben per Luca Dini. Abbassiamo però le campane, che così può tornare a dormire. Grazie, direttore di Vanity Fair, che trovate in edicola. E Paola Sanuzzi, che ritrovate oggi con Sky TG24 pomeriggio. Ora il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti e siamo di nuovo con voi, perché iniziamo alle 6:30 noi, ma lo so, molti mi scrivono, non gliela faccio, mi alzo alle 7, e vabbè, se vi alzate alle 7, eccoci qua. Siete pronti per la lettura dei giornali? Vi ricordo che oggi parleremo, insomma, di questa situazione di stallo politico in Italia, di Cipro che ci attende alle porte, il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, che sarà ai nostri microfoni ieri. In un post, sull'Huffington Post, che lui tiene, ha detto: guardate che Cipro non è poi molto lontana dall'Italia, in tutti i sensi. E con noi ci sarà Gianfranco Polillo, ci sarà anche Deborah Serracchiani, di questo parleremo alle 8:15, avremo anche uno sguardo alla Germania con un corrispondente tedesco in Italia, Udo Gumpel, per capire perché così questo rigore tedesco è visto male. E tutto questo mentre in Italia che succede? C'è un governo? Non c'è un governo? Si formerà un governo? E andate a saperlo, oggi iniziano le consultazioni, la strada è stretta, ci proverà Bersani. Ma andiamo a leggere i giornali in edicola. Quotidiani che troverete in edicola, tranne il Corriere della Sera, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, è in sciopero il Corriere della Sera, sia oggi e sia domani non lo troverete. Allora i titoli, il Sole 24 Ore, grilli sui debiti della pubblica amministrazione, tesoro pronto al decreto, è una dichiarazione in intervista al ministro dell'economia sull'annosa questione del pagamento dei debiti alle imprese. Dei crediti alle imprese. E Cipro, no al piano anti-default, sale la tensione dell'eurozona. Questo è il secondo titolo, diciamo una doppia apertura. La vicenda Cipro è anche declinata sull'Italia, è anche l'apertura per Libero. Come salvare i soldi da Merkel e Bersani, eurodramma. Oppure il manifesto, i conti non tornano, il Parlamento cipriota boccia il maxi prelievo forzoso sui conti bancari proposto da Bruxelles. La politica italiana invece, Repubblica, Bersani, la mia proposta al Colle. La Stampa, Quirinale, il rebus Bersani. Il Fatto Quotidiano invece sul Parlamento. Parlamento pulito, 3 condannati e 46 indagati. Questo è il titolo di prima pagina. L'Unità, i tagli di Boldrini e Grasso, che vedremo tra poco. E poi il Papa invece, l'apertura del Messaggero. Il Papa, il potere è servizio, il secolo XIX potenti andate a servire, anche qui è la frase del Papa, mentre il giornale apre su flop dei PM, Berlusconi non comprò senatori, questo è il titolo di prima pagina, Avvenire, anche Avvenire apre ovviamente su Papa Francesco, custodi dei doni di Dio, e c'è una foto del Papa che abbraccia un bimbo in piazza San Pietro ieri. Allora, avete visto la svolta grillina? I presidenti della Camera e del Senato, Boldrini e Grasso, si sono presentati ieri in conferenza stampa e poi in diretta a Ballarò in un'intervista a Due e hanno annunciato tagli di qui, tagli di là. Tra un po' annunciavano il taglio delle unghie dei parlamentari. Intanto hanno annunciato ci taglieremo il 30% dello stipendio, poi rinunceremo agli appartamenti che sono messi a disposizione del Presidente di Camera e Senato, poi hanno detto però vorremmo che si tagliassero gli stipendi anche i parlamentari, non è che possono decidere loro, ma poi vorremmo che si tagliassero gli stipendi dei dipendenti di Camera e Senato, questo è un tema di cui si parla meno ma è annoso, hanno degli aumenti che sono assolutamente marziani rispetto agli scatti che hanno tutti i comuni mortali che lavorano in aziende pubbliche o private, ma qui ci vorrà ovviamente un lungo lavorio con i sindacati, vogliamo aumentare la produttività, vogliamo lavorare dal lunedì al venerdì, ha annunciato Piero Grasso, che guardate che sembra una barzelletta per tutti voi che ascoltate, ma in realtà è una grande novità. Vabbè, comunque Boldrini e Grasso copiano Grillo, così titola il giornale, taglia gli stipendi, l'Unità mette in prima pagina questa vicenda, Camera, le strette dei presidenti, si taglia lo stipendio del 30%, ma sono buone notizie, cari italiani, però è la sensazione che vedete che già una rivoluzione c'è stata in qualche modo nel voto, i presidenti di Camera e Senato annunciano questi tagli, via il 30%, via gli appartamenti, sono ottime notizie, si può sempre fare di più eccetera, ma bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Il Messaggero tra l'altro fa un interessante articolo a firma Marco Ferrante, lo trovate a pagina 8, perché questa vicenda si lega con la richiesta esplicita da parte del Movimento 5 Stelle ieri in una conferenza stampa, dove già mai le domande dei giornalisti non si possono fare perché chissà quali brutte sporche domande questi cattivoni avrebbero fatto, il Movimento 5 Stelle ha detto vogliamo che vengano nominati alcuni di noi tra i questori. I questori, dovete sapere, sono 3 deputati e 3 senatori, sono quelli che hanno il bilancio sotto mano, quindi sono posizioni chiave. Perché, hanno detto al Movimento 5 Stelle, vogliamo anche rendicontare le caramelle della Camera, cioè vogliamo fare le pulci, no? A tutti i conti. Allora il Messaggero fa un interessante articolo, andatelo a leggere, tenete ben le mani sul volante, soprattutto perché leggere mentre guidate è impossibile, ma comunque idealmente, adesso che ve lo leggo io, tenete le mani sul volante strette, non arrabbiatevi troppo. Montecitorio, una macchina che costa oltre 1 miliardo l'anno. Eccolo qui, Marco Ferrante, rendicontare le caramelle, questo è l'obiettivo dei cittadini del Movimento 5 Stelle che nelle Camere saranno lì di guardia alla virtù pubblica. E allora, detto che circa 800 milioni di euro, così suddivisi, 161 per indennità e rimborsi dei deputati, 136 per le pensioni dei deputati, 287 milioni per stipendi di dipendenti, eccoli, 287 milioni stipendi dei dipendenti delle Camere, e 216 per le pensioni dei dipendenti, tutte queste vanno cambiate per legge. Quindi non è che possono fare i questori delle cose. Però ci sono alcune cose sulle quali possono, ecco, rendicontare. 800.000 euro per le spese degli ex deputati. 800.000 euro. Grillini, avanti! Rendicontate queste caramelle. Oppure 26 milioni di euro di affitto di immobili. La Camera. 26 milioni di euro per affittare immobili. Grillini! Aprite come, no, con l'apriscatole, la scatola di tonno. O ancora 1 milione di euro per servizi vari di stampa. Forza, guardateli dentro. 400.000 euro spesi dalla Camera per la formazione linguistica e informatica dei deputati. 400.000 euro. Dovrebbero parlare un inglese fluent tutti quanti. E invece a volte manco l'italiano. Grillini, guardate lì per favore. se sarete mai questori. Oppure 100.000 euro di servizi di guardaroba. 100.000 euro spendono alla Camera di Servizi di guardaroba. Cari grillini, vi prego, se diventate questori, subito andate a vedere dove mettono i cappotti alla Camera. E ancora 150.000 euro alla commissione inchiesta sul ciclo rifiuti attività illecite, 100.000 euro a quella sugli errori in campo sanitario, e vabbè, insomma, qua e là. Una macchina che costa oltre 1 miliardo di euro l'anno, 1 miliardo. Guardate, io me lo auguro, fateli questori, non vi faremo domande, vi prometto, noi giornalisti non vi faremo alcun tipo di domanda, non abbiamo alcun diritto, ma insomma sistemate almeno i 100.000 euro di guardaroba, che ognuno si curi il proprio cappotto, e 100.000 euro li risparmiamo più o meno così. E che dire, intanto viene intervistata Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, una che è proposta come questore. Viene intervistata dalla Stampa, Andrea Malaguti, qualche domanda, e dice: beh, Laura Boldrini ha detto apertamente che quel ruolo da questori spetterebbe a voi. Allora svengo e stanotte non dormo sicuro. Perché il Movimento 5 Stelle ha scelto lei da proporre come questore? Io ho dato la mia disponibilità, poi mi sono sottoposta alla graticola. E che? È già la terza volta che leggo questa cosa della graticola, sembra una tortura, no? La garrota, no? La graticola. E che è la graticola? Beh, sono domande aperte per testare le nostre competenze. Una volta fatta la verifica, si vota. Un ragazzo voleva sapere, per esempio, quali obiettivi avevo raggiunto nella mia carriera professionale. Io gli ho risposto che vivo mangiando bilanci. È la mia storia, la mia passione. Ho raccontato la mia esperienza alla Regione Piemonte. Lì con un gruppo di lavoro abbiamo tirato fuori molta roba, a partire dagli affidamenti diretti, per finire ai grandi casi di malutilizzo di soldi pubblici, il famoso sistema Torino. Vabbè, insomma, c'è un meccanismo che soltanto una forza nuova senza legami con le lobby può scardinare. Vi prego, scardinate almeno, se potete, con molta tenerezza, come direbbe Papa Francesco. Questi 100.000 euro di guardaroba non si possono vedere. L'anno prossimo è il bilancio, è la prima voce che andrò a controllare. Come minimo devono essere scesi del 70%. 30.000 euro di guardaroba li posso consentire, ma 100.000 euro di guardaroba non si può vedere. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Vabbè, alle 7.36 minuti c'è chi mi scrive, sono tutti annunci quelli che hanno fatto Laura Boldrini e Piero Grasso, che sono vuoti, non... ma perché bisogna essere anche così pessimisti? Non verranno mai tradotti in realtà, mi scrive per esempio un ascoltatore, sono balle come quelle che i politici sanno solo dire. Vabbè, c'è questa sfiducia, ma invece no, se hanno detto ci taglieremo il 30% dello stipendio, lo faranno, rinunceremo agli appartamenti di Camera e Senato, lo faranno. Più perigliosa e più lunga e più difficile è l'annuncio di dire vorremmo che anche i parlamentari si riducessero lo stipendio, vorremmo tagliare, io insisto, gli stipendi dei dipendenti di Camera e Senato, dipendenti di Camera e Senato, ma lì ci sono i sindacati che si metteranno subito di traverso, anche se hanno degli stipendi che sono davvero... inequiparabili rispetto a qualsiasi tipo di posto di lavoro che trovate da qui fino a Plutone, più o meno, vi assicuro. E allora, cari ascoltatori, intanto oggi iniziano le consultazioni, il clou sarà domani, perché oggi iniziano le consultazioni, certo con Presidenti di Camera e Senato, ma i partiti, cioè le delegazioni, per esempio il Partito Democratico, il Popolo della Libertà, Scelta Civica, Movimento 5 Stelle, andranno domani da Napolitano. Comunque, racconta Emilia Patta a pagina 13 del Sole 24 Ore, Bersani al Colle con una nostra proposta, rebus è il governo, la parola a Napolitano. L'idea, secondo il Sole 24 Ore, è che Bersani ha voluto dare uno stop di voci, possibili piani B o C su cui ripiegare, voci che da giorni si rincorrono, la strada certamente è stretta. L'idea è che il capo dello Stato, in caso poi Bersani non ce la faccia, magari dandogli un incarico pieno, non pieno ma con riserva, non ce la faccia poi a trovare una maggioranza, al che si possa andare allargando il consenso sui nomi di Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, soprattutto tenendo conto dell'ennesimo altolà giunto ieri dal Movimento 5 Stelle, che ha detto ancora una volta no a un governo Bersani, ma con un altro premier, una personalità terza, si potrebbe anche fare. Allora questa potrebbe essere l'idea, un Bersani che tenta la carta del tutto per tutto, ma poi in caso non ce la si faccia, piuttosto che andare in Parlamento a chiedere una fiducia e non ottenerla, ecco, queste cose si scoprono prima, se uno ha i numeri, allora piuttosto di evitare questa cosa e andare da Napolitano e dire non ho una maggioranza, al che sarà il capo dello Stato ovviamente a scegliere. Altrimenti, interessante anche a retroscena, ora vi dovete alimentare soprattutto di retroscena se vi interessa questo aspetto delle consultazioni, perché ufficialmente sono tutti scacchieri, no? Lì pronti con pedine che si muovono, cercare telefonate, immaginatevi queste telefonate notturne, staranno tutti dormendo adesso perché fino alle 3 di notte faranno queste telefonate a cercare di dire mi raccomando, appoggia, come potremmo fare, eccetera. Non è facile. Allora, voglio presentarmi alle Camere con un governo di cambiamento, questa è la frase attribuita da Goffredo De Marchis a Pierluigi Bersani su Repubblica, è la richiesta che Bersani porterà a Napolitano domani, anche il passaggio chiave che lo divide dal Presidente della Repubblica, perché pare ormai chiaro dalle consultazioni che cominciano oggi non uscirà una maggioranza certificata al Senato. E allora come se ne esce? Beh, intanto Bersani punterebbe su 146 voti, i senatori di Mario Monti sarebbero pronti a dare il suo sostegno, il neopresidente però non vota, ne mancano 12 per avere la maggioranza assoluta. Questo buco il segretario Bersani è convinto di poterlo colmare come? Con un programma e una lista di ministri ispirata al metodo Grasso-Boldrini, dunque volti nuovi e a sorpresa. L'unica eccezione è l'unica casella ferma, secondo Repubblica. Bersani avrebbe scelto per l'economia Fabrizio Saccomanni, attuale direttore generale di Banca Italia. Per le altre caselle si parla ancora di Carlin Petrini, Giampaolo Galli, ex direttore generale di Confindustria e neodeputato, Massimo Mucchetti, ex editorialista del Corriere della Sera, Fabrizio Barca, attuale ministro. Accanto a loro resistono gli identikit soliti che girano, Gustavo Zagrebelsky, Stefano Rodotà, persone che sono gradite anche a molti del Movimento 5 Stelle per cercare di colmare quel buco dei 12 voti e cercare di ottenere col metodo Grasso-Boldrini, cioè due nomi che spiazzano, che non sono legati ai partiti, che sono della cosiddetta società civile in alcuni casi, come Grasso e Boldrini, anche se eletti ora in Parlamento e nominati Camera e Senato, per spiazzare, per cercare di ottenere dei voti anche magari da qualcuno che nel senso di responsabilità dice beh, ma questo governo mi piace, almeno nei nomi, e quindi la fiducia la do e la macchina la faccio partire e poi si vedrà. L'idea potrebbe essere, secondo Repubblica, anche da parte di Bersani, di fare una sorta di governo di un anno, cioè dire facciamo partire, testateci con questi nuovi nomi, facciamo un anno e poi tra un anno vedremo come va, vedremo se abbiamo mantenuto le promesse e capiremo se si può andare avanti. Anche per Federico Geremicca sulla Stampa è un po' questa la linea, anche se sarebbe già pronto che cosa? Nome bis. Ieri è il nome che ci spendeva anche qui Mario Giordano, direttore di TGCom 24, cioè Piero Grasso. Nel caso Bersani non ce la facesse, ecco che Piero Grasso, come neo presidente del Senato, potrebbe essere mandato avanti come nome spendibile anche da Giorgio Napolitano per formare un governo nel quale il premier non è appunto Bersani, ma il presidente del Senato. Sono tutti, ripeto, tutti i movimenti, dovremo attendere alla fine. Giovanni Palombo sul Secolo XIX fa anche un retroscena molto interessante e intrigante, dice e scrive a pagina 4 che ci sarebbero 10 parlamentari del Popolo della Libertà tentati da Monti, cioè 10 colombe, non vi sono i nomi per la verità, ma alcune colombe così definite pronte a garantire la governabilità. Beh, questo sarebbe uno scenario davvero incredibile, che spariglia tutto, cioè quei 10 o 12 voti che mancherebbero, mettendo insieme PD e Monti al Senato, PD e Scelta Civica, potrebbero arrivare dal sostegno anche di 10 parlamentari, senatori del Popolo della Libertà, che in nome della governabilità sarebbero pronti a dare la fiducia. Così racconta Giovanni Palombo in un retroscena sul Secolo XIX. Interessante anche l'apertura di uno dei pochi del Movimento 5 Stelle che parla con la stampa, lo fa con Repubblica il neodeputato Andrea Cecconi. intervistato da Annalisa Cuzzocrea, dice: con un governo fuori dal sistema potremmo anche non votare contro. Andrea Cecconi: io dico che bisogna parlare con tutti, il che non vuol dire fare scambi, non è questo il punto. Trovo risibili gli 8 punti di Bersani, davvero poca cosa, ma vediamo cosa ci propone Napolitano. Servirebbe un governo con persone scelte con lo stesso criterio con cui si è arrivati a Laura Boldrini e Piero Grasso. Avete sentito? È un deputato del Movimento 5 Stelle che parla, che dunque apre a questa possibilità. Lo trovate intervistato da Repubblica, pagina 7, Andrea Cecconi: si potrebbe trovare un sistema col criterio con cui si è arrivati a Boldrini e Grasso. E a quel punto potete votarlo? Votarlo magari no, ma ci sono tanti modi. Si può uscire dall'aula, si può abbassare il numero legale, non c'è bisogno di dare per forza la fiducia. Quella è una cosa che vedo davvero difficile. Però vedete, il titolo dell'intervista è una simile apertura di Andrea Cecconi: con un governo fuori dal sistema e dunque la linea nomi nuovi, nomi che possano piacere anche a noi, potremmo anche non votare contro. Prima o poi, il deputato Cecconi aggiunge, dovremo parlare anche con i partiti. Come la mettiamo nel Movimento 5 Stelle? Io scherzando dico: sceglierà il metodo dell'esecuzione, sedia elettrica o iniezione letale, oppure no, va bene così. Questa è l'intervista del deputato Cecconi del Movimento 5 Stelle su Repubblica. E Berlusconi invece, Berlusconi, secondo Salvatore Dama, e siamo sempre su in retroscena, siamo su Libero, a pagina 8 ha un nome: proporrà a Giorgio Napolitano come premier Corrado Passera, attuale ministro allo sviluppo economico. Berlusconi si prepara al confronto con Napolitano, salirà domani al Quirinale per le consultazioni. L'ex premier sarebbe disponibile a agevolare la nascita di un esecutivo guidato anche da Bersani, purché per la prima volta sieda al Quirinale una personalità espressione dei partiti moderati. E in ogni caso, invece, se non riuscisse a indicare a Napolitano questa strada, allora avrebbe il nome appunto per guidare la riedizione del governo dei tecnici come governo Corrado Passera. Vabbè, tutte strategie, staremo a vedere. Certo, questo dal punto di vista del possibile dialogo anche tra Berlusconi e PD. Dall'altra parte invece Berlusconi, che incassa una sorta di prima vittoria a Napoli, nel senso che il giudice ne ha negato il giudizio immediato che avevano chiesto i procuratori, i pubblici ministeri, per la vicenda della presunta compravendita del senatore De Gregorio. Incassa questa vittoria almeno parziale al momento dal punto di vista giudiziario, ma il clima in realtà è molto teso in Parlamento. Perché? Perché anche il neo capogruppo del Partito Democratico Luigi Zanda ha detto: Berlusconi per me è ineleggibile. E allora, la legge è sempre quella citata nei giorni scorsi, una legge 361 del 1957 che imporrebbe a una persona che è titolare in proprio di frequenze, anche di interessi economici legati a frequenze radiotelevisive, di essere ineleggibile. Ora ci si chiede: ma allora dal 94 a oggi questa legge non era in vigore? Sì, era in vigore, ma è sempre stata interpretata come una possibile eleggibilità di Berlusconi. Ma pare che si ritorni su questo fronte, cioè il fronte ineleggibilità. Ieri il capogruppo al Senato del Partito Democratico Luigi Zanda ha detto: per me Berlusconi è ineleggibile in base a questa legge. Può darsi che qualcuno voglia tentare di sollevare nuovamente la questione. Luigi Zanda fa un'intervista sull'Unità a pagina 7, nella quale parla insomma da neo capogruppo di tutto quello che c'è da fare, eccetera, ma alla fine l'intervista di Natalia Lombardo si conclude con una frase che non promette bene dal punto di vista dello scontro istituzionale. Berlusconi, dice Zanda, sono 20 anni che infesta la politica italiana. Questa è la posizione molto netta, molto, molto dura del capogruppo del Partito Democratico al Senato, Luigi Zanda, che quindi promette battaglia su questo. Se volete sfrucugliare questo articolo interessante su Libero o no, Franco Bechis, vice direttore di Libero, fa un articolo sulla presidente, invece neopresidente della Camera, Laura Boldrini, la comunista con la chiesa di proprietà. vanno a fare un po' le pulci anche sul patrimonio di Laura Boldrini, e scopre Libero che la vendoliana Boldrini dal 2010 ha comprato nelle Marche con la famiglia, con il fratello Ugo, una chiesa a Marciana Mergo, in provincia di Ancona. Una chiesa, la chiesa di Santa Marciana Mergo, nelle campagne marchigiane, dove si trovano le reliquie del corpo di Santa Marciana, per l'appunto. Possiedono anche vari terreni, e il Libero dice mistero sull'uso del luogo di culto. Vabbè, c'è tutto questo articolo in cui vanno a fare a pagina 13 le pulci sul patrimonio della neopresidente della Camera. Cipro, Italia. È chiaro che molti temono questo, insomma, vedendo questa ipotesi che per il momento è scongiurata, cioè sapete che l'Unione Europea ha detto: noi, cara Cipro, vi diamo 10 miliardi di aiuti, ma voi dovete contribuire con 5,8 miliardi. E allora il governo cipriota all'inizio aveva detto: vabbè, prendiamoli con prelievi forzosi dai conti correnti dei cittadini, anche perché ci sono tanti, come dire, magnati russi che hanno fatto affari, hanno messo soldi qui grazie ai favori fiscali rispetto alla Russia, e quindi riprendiamo un po' di soldi magari a qualcuno che li ha fatti in maniera poco onesta. In realtà poi il prelievo forzoso nella prima versione capitava a tutti quelli che avevano messo i risparmi. Ora questo è scongiurato, nel senso che ieri il Parlamento cipriota ha bocciato questa ipotesi, che era stata avallata anche dall'Unione Europea, cioè vi diamo aiuti ma voi prendeteli anche dai conti correnti della gente, un qualcosa che sarebbe stato sconvolgente. È vero, è successo anche in Italia, il governo Amato, ma erano, non sto difendendo quel provvedimento, ma erano quisquiglie. Qui si parlava di tirar via fino al 9% dai conti correnti. Comunque Cipro ha bocciato il salvataggio europeo. Potete leggere la cronaca di Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore, ma soprattutto vi segnalo un interessante articolo di Carlo Bastasini in prima pagina del Sole, davvero un'analisi di come questo cortocircuito abbia prodotto un disastro. L'unica cosa comune, scrive Bastasini, è lo scaricabarile confuso, che se non fosse tragico sarebbe comico. Provate a seguire il filo di quello che è successo da domenica. Tutti da domenica accusano il ministro tedesco Wolfgang Schäuble per la proposta di prelievo forzoso. Schäuble però sostiene di essersi opposto, insieme al Fondo Monetario, al prelievo sui piccoli risparmiatori ciprioti. Berlino scarica la responsabilità sul governo di Nicosia, che per paura di una fuga di capitali non voleva un prelievo troppo elevato sui ricchi, ma accusa anche la Commissione Europea e il membro tedesco della BCE, Jörg Asmussen, il quale aveva osservato che una fuga di depositi era già in atto e bisognava congelare i conti. Il presidente cipriota Anastasiades ribatte di essere stato ricattato da Berlino e dalla BCE, che avrebbe tagliato i fondi che tengono in vita le banche del paese. La Commissione nega di aver definito la proposta e insieme, infine, la BCE smentisce categoricamente. La colpa è delle trattative svoltesi a Bruxelles. Sono però tutte le istituzioni insieme, Fondo Monetario, UE, BCE, ad aver messo il limite ai 10 miliardi all'aiuto di Nicosia. Vi siete persi? Beh, avete ragione, non si capisce niente. Tutti accusano tutti. Il dato di fatto è che uno scaricabarile terribile. Ora intanto il Parlamento cipriota ha detto: no, questo prelievo forzoso noi non lo facciamo. Ieri l'Eurogruppo ha detto: beh, però dovete ripensarci. Tutti contro la Germania, che indicano come il paese che ha voluto questa cosa. Tutti anche in Italia timorosi, insomma, ci hanno provato a Cipro e ora ci proveranno. Si sa, quando ormai c'è la crisi che avanza e si vede che le tasse sono l'unico modo per recuperare dei soldi, ora la gente dice: non è che succede anche in Italia? E intanto a Cipro che succede? Racconta Libero, ci sono anche direttori di banca che vengono picchiati. E che dire, in tutto questo, in 30 secondi vi segnalo l'intervista che Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore fa al ministro dell'economia Grilli, che ora dice: è possibile un decreto per sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, e l'intervista la trovate a pagina 3. E infine, storia che viene dalla Francia, Jérôme Cauzat, ex ministro al bilancio, l'uomo del rigore del budget, l'uomo delle tasse, l'uomo anti Depardieu, quello per cui Depardieu ha detto: me ne vado via, insomma, tutte queste tasse, eccetera, è accusato di ricettazione e frode fiscale, è accusato di aver avuto un conto in Svizzera coperto e si è dovuto dimettere. Mente sul conto in Svizzera, si dimette ministro francese. È proprio vero come diceva quel tale, che a fare i puri c'è sempre uno più puro che ti è pura. 24 mattino. La politica nel tunnel. Eccoci, eccoci cari ascoltatori, alle 8:16 minuti, allora è il momento di approfondire, come avete sentito la politica nel tunnel è davvero nel tunnel, oggi iniziano le consultazioni al Quirinale, tutti da Giorgio Napolitano, ma siamo lì appesi a capire se Bersani, presumibilmente lui ce la farà, visto che è l'uomo espressione del partito che ha la maggioranza di voti alla Camera, a trovare una maggioranza al Senato, anche unendosi PD e lista civica, Scelta Civica di Monti. Mancano, oggi facciamo i calcoli su Repubblica, almeno 12 voti per arrivare alla maggioranza, quella fiducia che farebbe almeno partire un eventuale governo. Allora, ce la farà? Secondo alcuni Bersani sarebbe pronto un po' a usare il metodo Grasso Boldrini, cioè a presentare una squadra di governo con nomi nuovi che spariglino, che facciano un po' come la sirena di Ulisse per attirare anche qualcuno del Movimento 5 Stelle a dire date questa benedetta fiducia, fate in modo che parta questo governo, altrimenti se non ce la si fa, insomma, è da 2 o 3 giorni che questa parola, questa isoletta Cipro, è entrata anche un po' nell'immaginario italiano. E questo timore che quello che sta succedendo a Cipro, dove l'Unione Europea ha promesso degli aiuti, ma ha chiesto anche ai ciprioti di fare con un prelievo forzoso dei conti correnti un bel aiuto, un bel contributo, prelievo al quale poi il Parlamento cipriota ha detto no, non facciamo così, da qui si innesca un dibattito e anche una battaglia politica, ma tutto questo entra anche nell'immaginario collettivo italiano, perché laddove non c'è una certezza politica di un governo c'è il rischio che la gente dica oh, ma non è che qui frana tutto, e quando frana tutto e quando la situazione economica è difficile, poi a chi va a ricadere sempre, in capo a chi? Indovinate un po', cari italiani. Allora, Cipro è poi così lontana secondo voi in questa situazione di incertezza della politica italiana? Ne parliamo intanto con il sottosegretario dell'economia Gianfranco Polillo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche Deborah Serracchiani, eurodeputata del Partito Democratico, benvenuta anche a lei. Grazie, buongiorno. Glielo chiedo direttamente Serracchiani, siccome l'idea di questo Bersani che proponga un governo di cambiamento, nomi nuovi eccetera, potrebbe essere un modo per sparigliare, secondo lei, per esempio, si parla anche dell'ipotesi di un nome nuovo come candidato premier, potrebbe essere una mossa non per forza legati a Bersani? Ma guardi, in questo momento direi di no, perché Bersani ha detto con chiarezza anche nell'ultima direzione nazionale che farà il tentativo qualificandosi come candidato presidente del Consiglio, quindi almeno in questo primo giro dubito, dopodiché guardi, veramente è difficile fare previsioni. In questo primo giro, ma qua tra l'altro lei li capisce questi tempi del, per carità, istituzionali, italiani, le consultazioni eccetera, cioè qua c'è l'economia che esplode, c'è un'isola la Cipro che pare lontana ma è dell'Unione Europea ed è molto vicina a noi perché siamo tutti collegati, che è in subbuglio e qua bisogna darsi una mossa. Ma guardi, posso anche capirli, non li giustifico, perché onestamente è cambiato il mondo, sta cambiando il mondo e come sempre non abbiamo strumenti flessibili per reagire a quello che sta succedendo. Dopodiché è chiaro che insomma abbiamo una forma di governo di un certo tipo, un Parlamento di un certo tipo, una Costituzione sicuramente, per quanto bella, che ha le sue rigidità. Io penso che bisogna fare i conti con una situazione, con tempi sconosciuti. Chi immaginava che saremmo finiti dove siamo? Comunque lei dice per il momento la palla spetta a Bersani, almeno il primo tentativo di vedere se si compone una maggioranza, anche se il Movimento 5 Stelle aveva detto in 500 lingue che la fiducia non la vota, quindi... Sì, però poi ha visto anche lei che qualche lingua è volata via, insomma, perché con Grasso in l'abbiamo visto. Confidate. Ma non so, guardi, non so neanche se si può confidare in questo, dico però che bisogna fare un tentativo, se non altro per l'interesse dei cittadini. Diciamo, almeno scegliere una squadra di governo che possa un po' attenuare le asperità del Movimento 5 Stelle, di qualcuno almeno, questa potrebbe essere la linea. Io, sottosegretario Polillo, lei ha firmato un post, tra l'altro, sull'Huffington Post, dove lei tiene anche, in cui dice chiaramente non pensiate che Cipro sia poi così distante non solo fisicamente da quello che è, e possiamo ipotizzare che in una situazione di incertezza politica il timore Cipro possa in qualche modo contagiarci? Sì, non nel senso di mettere le mani sui depositi degli italiani, ovviamente. Questo per perché carità. La crisi cipriota è completamente diversa dalla nostra. Lì ci troviamo di fronte ad un'economia che ha grandi difficoltà dal punto di vista sia dei conti pubblici sia dell'economia reale, ma soprattutto dal fatto che c'è una ipertrofia bancaria, il prodotto delle banche 8 volte il PIL di Cipro, e sono le banche che devono essere ricapitalizzate. Quindi dal punto di vista economico la situazione è completamente diversa dalla nostra. E l'effetto contagio, a mio avviso, ci può essere se la politica non riesce a realizzare quanto prima questo sospirato governo per la gestione del paese, perché in quel caso, siccome nella valutazione dei mercati non contano soltanto i fondamentali, ma anche le prospettive politiche di governabilità di un paese, se noi non avremo un governo stabile, solido, autorevole nei prossimi giorni, vi sarà una grande tentazione da parte dei mercati di liberarsi, di tornare ad essere liquidi nei confronti del debito italiano. E quindi in qualche modo di attaccarci, certo. È in mano estera. Quanto di percentuale, me la puoi ripetere? 33, dal 33 al 40%. Quindi insomma i mercati possono gestire la situazione. Ecco perché lei dice è fondamentale avere un governo, trovare un modo per formare un governo nei prossimi giorni. Però sottosegretario, non è il suo compito, visto che lei fa parte anche di un governo tecnico, ma dal punto di vista politico insomma ha anche può dare una sua analisi. La vede facile per Bersani? Ma guardi, questo dipenderà un po' dalle scelte del Presidente della Repubblica più che dell'onorevole Bersani. Ipotizziamo che venga incaricato Bersani magari con riserva. I numeri, lei da come sente anche... Per il momento non ci sono. Poi miracoli, io sempre scherzando dicevo, lo Spirito Santo ha fatto il miracolo di darci Papa Francesco, fare un altro giro sulla capitale e far nascere un governo, speriamo. Così la vedo dura, insomma. Ma se ci dobbiamo affidare a questo, per carità. I numeri per il momento non ci sono, ci vuole la conversione di un certo numero di senatori del Movimento 5 Stelle verso un'ipotesi che per il momento viene scongiurata. Io però faccio un altro discorso, sì. Ma noi in Italia siamo sempre dei creativi, perché noi in Europa abbiamo tre diversi episodi che sono simili a quelli italiani, perché ci abbiamo il caso della Svizzera, il caso della Grecia, il caso dell'Olanda, le scelte sono andate in una direzione completamente diversa. In Italia siamo creativi e quindi ci complichiamo la vita. Cioè, la traduco io, lei auspicherebbe, comunque potrebbe essere una soluzione di fare una cosiddetta grosse coalizione, come direbbero in Germania. Cioè, la soluzione europea è stata questa. PD-PDL. È stata questa, perché in Olanda è successo questo, liberali e laburisti si sono messi insieme dopo aver polemizzato per anni. In Grecia è successa la stessa cosa, in Svizzera questa è la soluzione, noi in Italia mettiamo una soluzione diversa, e va bene, auguri. Ha capito, onorevole Serracchiani, qui c'è da ingoiare questa pillolona amara, immagino, per lei come ipotesi, una cosa che per la verità il PD ha già scongiurato e ha detto no, assolutamente non si può fare. Cioè, mettetevi con Berlusconi, questo, trovate una formula. Guardi, onestamente non mi pare che ci siano le condizioni, insomma, ma non tanto perché dobbiamo copiare qualche modello, quello olandese o altri. Pensiamo all'Italia, non ci sono le condizioni perché un governo del genere con il Movimento 5 Stelle sugli spalti possa reggere, insomma, mi pare anche evidente dal risultato delle elezioni. Auspico onestamente che ci sia quell'intelligenza politica per cui, a fronte di nomi importanti, veri, determinanti per il bene del paese, tutti si facciano un esame di coscienza. Cioè, lei punta a questo, però lei dice non si può mettere il Movimento 5 Stelle sugli spalti, cioè deve essere partecipe. Però il Movimento 5 Stelle, questa è una strada molto pericolosa, perché lì si confida che poi qualcuno col metodo Grasso Boldrini in qualche modo o vi appoggi o faccia finta di uscire dall'aula, faccia abbassare il numero legale. Invece la strada che propone Polillo sarebbe una strada certamente numericamente, non politicamente, più concreta. Allora, potrebbe essere numericamente più concreta, politicamente difficile. Mi pare complicato stare con un partito che va al Tribunale di Milano a protestare contro i giudici. Cioè, qui credo che ci sia anche la necessità di mantenere un livello democratico e istituzionale accettabile. Quello che secondo me serve, e serve, diciamo così, nell'immediato, è la certezza di quello che può capitare, se si va a votare o se si riesce a fare un governo che, seppur a tempo, riesca evidentemente a fare quelle azioni necessarie in questo momento storico così delicato. Dice, ma con Berlusconi mai. Senta, lei da eurodeputata, come la giudica questa vicenda di Cipro? Cioè, Cipro fanno bene, hanno fatto bene in Parlamento a dire, per carità, gli aiuti attraverso ce li date e in cambio noi facciamo un prelievo forzoso anche sui conti dei cittadini ciprioti? Col cavolo che facciamo una roba del genere, questo diktat imposto dall'Europa. Ma guardi, l'Europa sta tentando da tanto tempo, diversi mesi, di creare le condizioni di un monitoraggio e una vigilanza che riguardino tutti i paesi europei, a partire dalla Banca Centrale Europea, che avrà il compito, ha il compito di monitorare la situazione dei sistemi bancari europei. Allora, delle due l'una: se crediamo nell'Europa, è chiaro che ogni Stato dovrà cedere un pezzo di sovranità nazionale anche quando questo non fa piacere. Se pensiamo che l'Europa sia inutile, che si possa fare meno dell'euro, beh, allora andiamo avanti con tensioni che oggi toccano a Cipro, domani possono toccare all'Italia e hanno già toccato la Spagna e la Grecia. Sottosegretario Polillo, lei conviene del fatto che i paesi debbano cedere parte della loro propria sovranità in nome di un'Europa? E fino a dove si può mettere questa asticella? In una prospettiva di medio periodo è l'unica soluzione possibile, altrimenti saremo schiacciati da una competizione internazionale che avviene per grandi aree geografiche. Sì, ma dove porre l'asticella? Perché se quelli a Bruxelles dicono vi diamo 10 miliardi, ma voi tirate fuori dei soldi dai cittadini, dai risparmi, anche dai piccoli risparmiatori. Ma guardi che la trattativa con Cipro dura dal giugno del 2012. Eh beh, certo. Se in un anno non sono riusciti a trovare una soluzione, alla fine l'Europa che deve fare? Deve continuare a finanziare un'economia in cui i fondamentali sono tutti alterati, che derivano dal fatto che appunto hanno un forte deficit del bilancio dei pagamenti, un forte deficit del bilancio dello Stato, un debito che cresce al ritmo di 10-15 punti l'anno. Che deve fare l'Europa? Continuare a finanziare la bella vita dei ciprioti, scusi. Questo no, però mi scusi, la soluzione alla fine a su chi ricade? Cioè, va bene, lei dice dovevano fare le riforme. L'Europa ha chiesto una manovra. La manovra non deve essere fatta necessariamente sui depositi bancari, appunto. Può essere fatta anche aumentando le imposte. Loro hanno imposte sulle società del 10%, Hanno tirato, Cipro ha tirato capitali, specialmente russi, con ipotesi anche al limite criminogene, perché si parla di riciclaggio di denaro e cose di questo genere. E che deve fare l'Europa? Deve dire continuate così, perché tanto noi vi finanziamo. Giustamente Cipro dice in questo anno e mezzo avrebbe potuto fare delle manovre, certo, delle riforme, eccetera, ma capisce che se si va alla fine a risolvere, come ipotesi poi scongiurata, di andare a tirar via i soldi dalle banche dei cittadini, così implode proprio tutto. Scusi, l'Europa dice dovete fare una manovra. Come fare la manovra decidete voi. Se non la fate, alla fine facciamo un taglio draconiano. Ma in Italia non è successa la stessa cosa. Non ci hanno imposto di fare una manovra per fare il bilancio, le riforme. Non abbiamo aumentato l'IMU. Sì. Questo si deve fare. Perché noi lo dobbiamo fare? Perché noi siamo figli di un Dio minore. Noi le manovre le facciamo e Cipro no. Cioè, mi sembra un po' assurdo questa. Quindi Cipro avrebbe dovuto fare qualcosa, certo, però arrivare all'estrema razio di dire non sappiamo, perché qua sembra un po' così. Poi si capisce anche la paternità. Oggi sul Sole 24 Ore non si capisce se la paternità adesso è uno scaricabarile. Ce l'hanno chiesto l'Europa, certo. No, non è vero, no, se è stata Nicosia. La misura decisa da, ipotizzata dal governo cipriota, era molto grossolana, diciamolo. Sempre che sia stata ipotizzata da Nicosia, perché ora dicono no, è stata la BCE che ci ha un fondo monetario. No, è stato, come dire, un frutto di una trattativa. Però se uno va al tavolo della trattativa dicendo io la manovra di 8-9 miliardi, quello che era, invece di farla così la faccio in quest'altro modo, all'Europa non interessa nulla, all'Europa interessano i numeri. Vogliono una manovra di X miliardi, come ce l'hanno detto a noi, mica ce l'hanno detto aumentate l'IMU. No, questo certo, voi avete trovato questa soluzione. Comunque tra 5 minuti ripartiamo, 800 24 00 24. Temete, cari italiani, anche che l'Italia possa finire nel contagio cipriota in questa situazione di incertezza politica? Il sottosegretario politico Polillo ci dice c'è una soluzione, una grossa coalizione, si mettano insieme PD e PDL, potrebbe essere una soluzione, se no auguri, visto che i numeri non ci sono. E Deborah Serracchiani dice no, assolutamente no. Ci raggiungerà tra poco anche Udo Gumpel, che è un corrispondente della TV tedesche in Italia. Perché? Perché tutti guardano ad Angela Merkel come, anche in questo caso, ci sono manifesti addirittura di Angela Merkel dipinta come Adolf Hitler, cioè la Germania come colei che, come la nazione che vuole imporre a Cipro questa cura di rigore estremo. 24 mattino. Allora, alle 8:36 minuti, eccoci di nuovo qua. Il timore che l'incertezza politica italiana ci faccia subire il contagio, e quello che sta succedendo anche a Cipro. Siamo con Deborah Serracchiani, eurodeputata del Partito Democratico, con il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, e voglio salutare anche Udo Gumpel, che è giornalista e corrispondente d'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Buongiorno Gumpel, eccoci qua. Sì, buongiorno. Allora Gumpel, intanto tutti gli occhi sono puntati sulla Germania. In qualche modo ha visto anche lei le contestazioni a Cipro, come dire, la Germania ci voleva imporre con il suo rigore questo prelievo forzoso, e Cipro invece ha reagito così. Lei è d'accordo quando il sottosegretario all'economia Polillo dice: ma insomma, anche Cipro che ha fatto in quest'anno e mezzo? Niente. Che dobbiamo fare? Mantenere la bella vita dei ciprioti? Allora, io sono, come al solito, in disaccordo e che mi piace essere anche un pochettino controcorrente. Non mi piace la domanda come l'ha posta lei, perché non è che il governo tedesco, o più precisamente l'Eurogruppo insieme al Fondo Monetario Internazionale, perché non è che adesso la Germania comanda il gruppo dell'Euro, sono delle decisioni che vengono prese di unanime d'accordo tra tutti i ministri delle finanze che rappresentano tutti i paesi dell'euro, tra l'altro anche l'Italia. Certo. Se lei volesse prendersela con qualcuno, se lo prenda anche con il ministro italiano. Questo per chiarezza. No, non è vero che la Germania o il gruppo dell'euro abbia imposto qualcosa. La storia è molto diversa e secondo me bisogna partire dai fatti. Ed è stato il governo cipriota che in un primo momento ha chiesto 17 miliardi di euro di aiuto. Questo sembra poco rispetto ai problemi italiani, però se lei si rende conto che il Cipro ha un PIL di 17 miliardi di euro, hanno chiesto il loro in PIL. Pratica un anno di PIL. Questo diciamo come verità. La seconda è il modello economico del Cipro non funziona più. In che cosa consiste e con che cosa consisteva la vita cipriota economica? Loro attiravano soldi esteri, gran parte del denaro parcheggiato da magnati russi. Sì. Lì abbiamo una stima, mi pare Bloomberg, che dice sono circa 15 miliardi di euro russi. Infatti li chiamano Limassolgrad, sono parcheggiati là. In più abbiamo soldi evasori fiscali di tutto il mondo, gran parte anche europei. Sì. E non pochi italiani, e che ora hanno circa il valore di 70 miliardi di euro nelle banche cipriote. Una decina se ne erano già andati per paura che là crollasse il sistema, e ora il governo cipriota ha fatto una proposta al governo di prelevare 5 miliardi 900 milioni dai conti ciprioti. Sì. Perché loro non sapevano più come fare. Perché la proposta, però perdoni, la proposta non è stata fatta dall'Eurogruppo o dal cattivo ministro delle finanze, certo, Schäuble, o la povera signora Merkel, ma è stato fatto dal governo cipriota per avere 10 miliardi. Esatto, però la domanda è questa, no? Allora Gumpel, effettivamente sappiamo anche noi che funziona così come Eurogruppo, ma perché le contestazioni, l'ha vista anche lei, si focalizzano soprattutto sulla Germania, vista come il paese cattivo che impone le cose? Ma guardi, è molto semplice, vada lei in Germania per strada e chieda ai contribuenti che versano le tasse nello Stato, nelle casse dello Stato, a chiedere a loro 100 euro per i ciprioti che hanno un modello che vivono di evasione fiscale internazionale. Allora, guardi, questo modello non funziona più. Ma infatti, questa è la risposta migliore, Gumpel, per dire l'Europa, no? Allora cos'è? È la risposta perfetta che ci ha dato. Allora l'Europa cos'è? È perfetta questa idea. Cioè il tedesco dice: ma perché io devo, c'ho il rigore, perché devo pagare la bella vita dei ciprioti, come dice? Allora esplode tutto. Cioè l'Europa cos'è? Guardi, c'è un altro problema. Se adesso l'Eurogruppo si facesse ricattare dal Cipro, che prima ha fatto una proposta, poi l'ha ritirata, perché evidentemente non sanno più che pesci pigliare, se l'euro adesso si facesse ricattare dal Cipro andrebbe a saltare tutto. Perché non è che adesso il governo tedesco abbia fatto una proposta al governo cipriota, l'hanno fatto loro e si sono visti contestare le loro scelte. E allora adesso il problema è la palla nel campo del Cipro, e poi non credo affatto al pericolo di un crollo. Lei forse dovrebbe guardare anche le cifre, cosa succede in borsa. L'altro giorno, mi pare esattamente ieri, era che la Spagna ha chiesto 4 miliardi di euro per nuovi prestiti ai mercati internazionali, ha avuto il tasso più basso di interesse che non pagava dal 1992. I mercati finanziari sanno benissimo distinguere tra il caso del Cipro, sì, e l'Italia e la Spagna. Chi dice che qua crolla tutto fa soltanto propaganda politica, no, no, beh, ma e questo, non vuole conoscere i fatti. Questo si spera proprio di no. Però ha detto alcuni elementi che vorrei discutere con, anche con Polillo e Deborah Serracchiani, che so che ci deve salutare qualche minuto prima. Intanto, onorevole Serracchiani, quello che ci dice Udo Gumpel vuol dire che insomma è una prospettiva, dipende da uno come la vive. Va in Germania a chiedere di dare 100 euro per Cipro e dice: ma perché, come ha detto prima Polillo, dobbiamo sostenere un sistema che non è più sostenibile? Dal punto di vista suo, da eurodeputata, questo cosa vuol dire? Cercare di tenere un qualcosa che in realtà è un po' una chimera? No, si tratta, cioè, io penso non sia una chimera, penso sia possibile, però evidentemente richiede da una parte sacrifici, dall'altra impegno, ma anche responsabilità e serietà. L'analisi che è stata fatta è correttissima. Cipro sta, diciamo così, affrontando questa crisi ed ha aperto una trattativa con l'Europa, ma da mesi, da oltre un anno, ciò nonostante non fa quei cambiamenti, non fa quelle azioni che sono necessarie. Cioè, voglio dire, adesso scopriamo che c'è una richiesta di intervento sui conti correnti, è ovvio che è una l'ultima razio, l'estrema, sì, razio, ma è altrettanto vero che finora non hanno fatto nulla. Allora, l'Europa sta in piedi se tutti più o meno si comportano o fanno la stessa cosa, e se tutti collaborano in qualche modo, non è d'accordo. Le chiedo questo, guardi, Cipro è perfettamente nell'Unione Europea, ma andiamo a vedere il sistema bancario e gli istituti di credito, che tipo di manovre hanno fatto in questi anni per avere quel tipo di credito in cassa, insomma, perché l'Europa, se vuole starci, e deve starci, e deve esistere, deve avere un sistema che regga, e deve esserci un controllo anche del sistema bancario di qualche tipo, che sia assolutamente possibile da tenere in piedi, perché così non possiamo andare avanti. Oggi è Cipro, un'altra volta era la Spagna. No, ma è chiaro, io le devo chiedere questo perché lei ci deve salutare, ma lei, saltando alla situazione italiana, che c'ha con D'Alema? Perché lei non vuole D'Alema al Quirinale? No, perché voglio dire, se vogliamo provare a fare un governo, non bisogna mettere le dita negli occhi agli altri, insomma. Mi pare che il nome di D'Alema sia la persona meno adatta. Però il Quirinale si decide tra un mese e mezzo. Ma non per la persona, sia chiaro, non ho nulla in contrario. Dico però che bisogna tentare di creare le condizioni perché vadano nei ruoli importanti delle persone che in qualche modo possono creare quelle condizioni di dialogo che altrimenti non sarebbe possibile. Sì, ma del Quirinale si parla ad aprile, del Quirinale, adesso il governo è un'altra cosa. Ho capito, cosa. Ma lo so, ma lei prima mi ha chiesto perché no PD, PDL, eccetera. Allora io le dico che in questo momento non ci sono le condizioni, posto che le condizioni sono sempre quelle di avere in cambio qualcosa, e questo qualcosa in cambio in questo momento è evidente dalle dichiarazioni di Berlusconi e la Presidenza della Repubblica. Dopodiché io ho firmato, come tantissimi altri cittadini italiani, l'appello facciamolo, perché auspico che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti, non soltanto del Movimento 5 Stelle, da parte del PD, da parte evidentemente anche di alcuni componenti del PDL magari un po' più illuminati, però mi rimane comunque, diciamo così, una preoccupazione che credo sia di tutti i cittadini. È vero che siamo diversi da Cipro, è vero che non siamo nelle stesse condizioni economiche, ma è altrettanto vero che non possiamo permetterci questo stallo per troppo tempo. Questo sì. Intanto la ringrazio. Prima del traffico, sottosegretario Polillo, lei condivide l'analisi di Udo Gumpel, che però dice, attenzione, dire che in Italia succede un rischio contagio di questo genere è propaganda pura. Di averlo detto anche prima, l'analisi su Cipro è assolutamente condivisibile, sono le cose che ho detto già prima io. Io non sto parlando di una trasposizione della situazione cipriota in Italia, ovviamente, che non ha senso. Dico che però ci può essere un contagio che già si manifesta nell'andamento degli spread, perché noi stiamo perdendo terreno nei confronti della Spagna, per esempio, quando la situazione spagnola è molto peggiore della nostra. Perché perdiamo terreno? Perché c'è l'incertezza della situazione politica. Quindi noi viviamo il paradosso di avere un'economia relativamente più solida, nonostante la crisi che abbiamo, rispetto a quella di altri paesi, però una situazione politica assolutamente disallineata. E questo sì, è l'intreccio di situazione politica incerta che crea questa situazione. Eccoci, 8:48. Udo Gumpel, le chiedo: come vedono in Germania questa incertezza politica italiana in cui non si sa se si riuscirà a formare un governo o meno? Ma naturalmente con un occhio preoccupato, però sinceramente la profonda preoccupazione che abbiamo vissuto un anno e mezzo fa, in estate del 2011, oggi non si vede, perché la percezione è che qualcosa sta succedendo, le cose cominciano a camminare, anche se lentamente, e mi permetta solo a dire una parola rispetto alla idea ventilata, soprattutto credo addirittura dal blog di Beppe Grillo, che Massimo D'Alema sarebbe il candidato del Ciuccio per il Quirinale. Questo è naturalmente una buttata di Grillo, credo giustamente, se uno volesse attribuirgli una strategia politica per scongiurare questo fatto. Ha sentito però che anche Deborah Sedacchiani, che è del Partito Democratico, dice come mettere un dito in un occhio il nome di D'Alema, è un nome che anche nel Partito Democratico, che è il partito di D'Alema, c'è il primo sondaggio dell'SVG di ieri, mi pare, o dell'altro ieri, che dice se il PD volesse fare attività, diciamo, che possano essere visti come il famoso inciuccio, e tra l'altro la parola mi pare era coniato da Alessandro Mussolini, però comunque sempre rivolto a Massimo D'Alema, e questo purtroppo è il suo karma negativo, allora il PD finirebbe a circa 18-19% e Grillo a 40%, e comunque credo che assolutamente politicamente sarebbe il suicidio totale per il PD se volesse promuovere D'Alema in qualsivoglia posizione politica, ossia un governo o qualsiasi altra cosa. E credo che anche Bersani si dovrà sacrificare sull'altare del rinnovamento, perché anche lui è un politico che ha fatto più di 2200 giorni al governo, come Renzi ci ha raccontato bene, ha fatto i conti nel dibattito delle primarie, e dunque anche Bersani, per avere la chance di fare un governo di scopo, un governo con i famosi 10 punti, che di sicuro non sarà votato, e a questo bisogna credere al Movimento 5 Stelle quando lo dicono in tutte le forme. Non voteremo mai premier Bersani. Ma infatti, allora perché ci provare? No? Polillo, infatti, la soluzione lui dice ce l'ha. Lei, sottosegretario, insiste su questo. Auguri se uno non vuole fare la soluzione che hanno fatto in Grecia, in Olanda, in Svizzera, cioè un governo di larghe intese. Ma effettivamente, però, sottosegretario, in Italia com'è possibile col livello del dialogo a cui siamo arrivati? Forse così, il governo di larghe intese ha durato un anno e mezzo, cioè, non è che è un'invenzione, un ibrido. Sì, ma lei lo vede anche lei, insomma, il dibattito, no, sulla giustizia. Ci siamo infilati in un tunnel che non senza via d'uscita. Ma non se ne può non tenerne conto. Allora, secondo me l'alternativa qual è? Spacchiamo il Movimento dei 5 Stelle? No. La proposta di Bersani mira a questo. A spaccare il Movimento 5 Stelle. Io credo che dal punto di vista proprio della deontologia democratica parlamentare, avere una strategia politica che punti alla spaccatura di un gruppo sia la cosa peggiore che noi possiamo fare. Cioè, perché si è visto nelle elezioni del Presidente del Senato quello che è successo. Vuole fare scouting, poi lei lo chiama come spaccatura, quello vuole fare secondo lei. Vabbè, vogliamo fare la transumanza di senatori da una parte all'altra, mi pare una cosa eticamente non sostenibile. Oppure dire fare un governo che miri anche con un programma a cose alle quali ambiscono anche al Movimento 5 Stelle, per cui magari non c'è la fiducia, però sui singoli provvedimenti se parte il governo. Ma ci deve essere allora la decisione del Movimento. È stato molto criticato tutta la vicenda De Gregorio, no? Sì. Si ricorda Berlusconi, perché si dice che ha L'accusa lì è proprio averlo comprato. Scilipoti, no? Sì. E adesso questa è la strategia di un grande partito come il Partito Democratico, ma non lo so, fate voi. Però voglio dire, l'alternativa che lei pone in un qualsiasi paese sarebbe normale, ma la vede possibile che, insomma, i Berlusconi manda i 100 parlamentari a fare la manifestazione davanti al tribunale e Bersani si mette adesso a tavolino? Non capisce, non mi posso pronunciare per motivi. No, per dire il livello di dialogo, cioè di mancanza di dialogo, di conflitto. Il capogruppo al Senato Zanda oggi sull'Unità del Partito Democratico ha detto: Berlusconi infesta la politica italiana da 20 anni. Com'è possibile che si mettano? Ho capito. Se uno pensa che Silvio Berlusconi sia il diavolo della Seconda Repubblica, vabbè, che posso fare? Io lo considero un demonio. No, chiaro, ma io lo considero una persona normale, insomma. Io le pongo quello che è la premessa per un dialogo da parte di un esponente del Partito Democratico. Purtroppo è rimasto prigioniero dei suoi slogan. Il PD. Questa è la difficoltà. non tutto il PD, perché poi quando parli con molti deputati del PD c'è gente di grandissimo livello, di ragionevolezza, però quando si rimane prigionieri della propria propaganda, alla fine si porta il paese allo sfascio, questo è il punto. Senta, sottosegretario, io ho un minuto, devo chiedere una vicenda personale che oggi i giornali raccontano, e cioè che lei, ma è vero che lei è distaccato dalla Camera, cioè finita l'esperienza? Perché se sono stupido, guardi, c'è il curriculum su tutti i No, sui giornali dicono che lei potrebbe rientrare come altri alla Camera. Ma guardi, io faccio parte, io prima di fare il sottosegretario ero il consigliere economico del gruppo PDL. Sì, alla Camera. Quindi rientrerà quindi, in quel ruolo. E quindi la Camera che cosa ha fatto? Ad una certa data ha stabilito l'elenco di tutti coloro che lavoravano per la Camera. C'era anche il mio nome, io ho lavorato 3 anni e mezzo per la Camera. E certo. E quindi che fa adesso che finisce l'esperienza di governo? Può rientrare in ruolo? Potrebbe rientrare in ruolo? No, ma io non sono di ruolo. Diciamo. Io non sono nel ruolo del... Perché sui giornali c'è non scritto... Non c'è il ruolo dei Ah, vabbè, è un consigliere, quindi verrebbe chiamato nel caso, deve essere chiamato per rientrare... Sì, nell'eventualità, ma non c'è per il momento... No, perché tutti i giornali oggi raccontano, Polillo è tra gli altri, le persone che potrebbero rientrare alla Camera rubando il posto di lavoro a un altro, ecco, per diciamo. Per chiarire, io vengo dalla Camera, io vengo dai ruoli della Camera, sì, come dirigente della Camera, ma della burocrazia Camera. Poi sono andato in pensione e quando sono andato in pensione ho avuto un rapporto di collaborazione con il perfetto gruppo. Quindi lei è dipendente della Camera ma in pensione in questo, cioè ha fatto una carriera alla Camera ma in pensione. Ho fatto tutta la mia carriera come funzionario della Camera prima di diventare il capo del servizio studi della Camera, oltre che il capo del servizio bilancio. Poi sono andato in pensione Ed è stato chiamato come consulente. No, ho avuto degli incarichi di governo perché sono stato capo del Dipartimento Affari Economici di Palazzo Chigi, poi sono stato capo di gabinetto di un ministro e poi a un certo punto ho avuto un rapporto di collaborazione che è durato 3 anni e mezzo prima di fare il sottosegretario alla Camera dei Deputati. Vabbè, fermiamoci qui, rientreremo su questo tema. Intanto vi ringrazio, devo chiudere e ci troviamo domattina. 24 mattino.